sei il faraone, tu sei un dio, ricordatelo. Tu hai il dovere di stare al tuo posto. Non puoi lasciare andare a ramengo il tuo prestigio. Qualsiasi altro al tuo posto, chissà che aria si darebbe. Il sangue di 200 prigionieri. Ah, inutile, l'ho sempre detto. Tu non sai farti valere abbastanza, figlio mio. Goccia di sangue incrosta i ginocchi, spina di rosa nel dito, la macchia scura sul vestito, le dita sporche negli occhi, l'orologio coi suoi partenza dal quinto binario, il grande espresso intercontinentale, Parigi, Berlino, Düsseldorf, Varsavia. Oh, Dio mio, ci siamo. Hai preso tutto, cara? Ma tutte quelle valigie? Ma quanto pensi di stare via? Chissà se ci rivedremo più. Qualcosa mi dice che... E ti raccomando, appena arrivata... Signori viaggiatori in partenza col Great Eastern, sono pregati di prendere in barco i signori viaggiatori in partenza. Oddio mio, ci siamo. Hai preso tutto, cara? Tutte quelle valigie? Ma quanti mesi pensi di stare via? Chissà se ci rivedremo più. Qualcosa mi dice... E ti raccomando, appena sei arrivata... Ultimo avviso, è in partenza il volo 268 della Air France per Istanbul, Karachi, Calcutta, Bangkok, Hong Kong, Tokyo. I signori viaggiatori sono pregati di avviarsi all'uscita 9, grazie. Oddio mio, ci siamo. Hai preso tutto, cara? Ma tutte quelle valigie? Ma quanti anni pensi di stare via? Chissà se ci rivedremo più. Qualcosa mi dice che... Signori, in carrozza! Ma che cosa fai, cara? Perché? Come? Non parti più? Allora era soltanto un brutto sogno.